Cari amiche e cari amici, Maridia ai microfoni, bentrovate e bentrovati per questo ultimo martedì di aprile, che si apre anche ad un gradevole weekend, perché a quanto pare ci sono tantissime cose da fare in questa nostra strepitosa capitale. Un saluto quindi a tutti coloro i quali ci stanno ascoltando, tutti coloro i quali hanno terminato una lunga giornata di lavoro, a quelli che sono in partenza di partire, ce ne sono tanti, quindi buon lavoro a chi continua ancora a lavorare, buone vacanze a chi parte, mi raccomando, fate sempre tanta attenzione. Saluto Dani M. Regia. Buona serata a tutti e restate con Bruxellando anche sul blog, anche su Twitter e insomma seguiteci. Beh, avete visto, avete notato dalle ultime, soprattutto dalle ultime puntate, questo mese di aprile è stato veramente ricchissimo di ospiti di un certo valore artistico, insomma, universalmente riconosciuti a livello anche mondiale. Quindi siamo veramente felici di aver potuto contribuire anche a diffondere i messaggi che queste personalità hanno espresso le scorse settimane. Bruxelles, come sapete, è capitale dell'Unione Europea, ormai è diventato non solo più un modo di dire, ma proprio un fatto, già che si dice che da Bruxelles si decidono poi tutta una serie di cose. Questa sera, così come ormai è abitudine da qualche tempo, un po' una novità a Bruxellando, perché non siamo nell'ambito della penna del diplomatico che riprenderà tra qualche settimana, ci siamo anche interrogati ed affrontato questioni europee. Il 2014 è un anno estremamente interessante per tutti noi cittadini europei, impegnati da un lato a rinnovare il Parlamento, il prossimo Parlamento, vi ricordo che il prossimo 25 maggio, quindi è un incontro importante quello che affronteremo. La Commissione europea stessa cambierà i vertici e chissà che cosa bollerà in pentole, quale di questi presidenti, quale di questi che ho avuto modo di ascoltare ieri sera su Euronews, insomma alcuni di loro hanno detto cose interessanti, mi aspettavo qualcosa di più, non faccio nomi, ma staremo a vedere, quindi come vedrete sono tante le cose che bollono in pentola nei prossimi mesi. E questa sera ne parliamo in chiave economica, in chiave quindi un po' diversa, sicuramente politicamente legato, ma insomma, non voglio svelare troppo perché altrimenti poi se mi avvio dico troppo, quindi voglio presentare direttamente il nostro ospite, Carmelo Cedrone, sindacalista nonché professore di economia a Roma alla Sapienza, il quale è autore di un saggio fresco di stampa, infatti è stato pubblicato qualche mese fa, dal titolo "Dove va l'euro? Eurozona euro 17-1". Carmelo, benvenuto a Radio Alma, Bruxellando. Grazie grazie a voi per l'ospitalità. Ci siamo incontrati prima, io e Carmelo, prima di arrivare in trasmissione. La prima domanda che gli ho fatto è stata veramente semplice. Gli ho detto: mi spieghi che cosa intendi per 17-1? Perché potremmo raccontare tante cose, quindi partirei anche da lì. Perché Eurozona Euro 17-1? Sì, 17-1 perché interessandomi appunto di questa questione della crisi e quindi dell'euro da molto tempo, alla fine ho scoperto che abbiamo creato l'euro ma l'abbiamo lasciato solo. E i 17 paesi, adesso 18 che ne fanno parte, continuano a fare e ad agire per conto proprio e l'euro è tutto lì, che solo il raminco alla mercé di quello che avviene a livello internazionale, tutte le tempeste che lo martellano. Di tempeste negli ultimi tempi ne è soffiata più di una. Allora io partirei proprio con una domanda storica, perché ormai sono circa 12 anni che l'euro è stato introdotto, quindi mi viene semplice chiederti perché è nato l'euro. Ci sono delle ragioni vere di carattere economico, di carattere anche storico, come tu dici, di carattere economico, perché queste fluttuazioni nel rapporto tra le monete, dei cambi, no, tra una moneta e un'altra, ci ricordiamo che prima, ricordo io quando venivo a Bruxelles prima, poi passavo a Parigi, dovevo avere 5-6 monete in tasca, gettoni per telefonare, eccetera, quindi da questo punto di vista la vita si è semplificata. Però l'euro non è nato solo per questo. Questo è un aspetto importante, ma che riguarda noi cittadini, ma un po' esteriore. In realtà l'euro, volevo rispondere anche appunto a delle differenze economiche che c'erano tra i paesi, ma la vera ragione per cui l'euro è nato è una ragione di carattere tutta politica, e forse questo è un po' il limite poi che abbiamo ritrovato successivamente, cioè che dopo la caduta del muro di Berlino bisognava riunificare la Germania. gli Stati Uniti erano d'accordo, adesso sai fare la storia è un po' complicato, e alla fine ovviamente la Francia, insomma, che altri paesi hanno chiesto una contropartita alla Germania, e sembrava che la contropartita migliore fosse quella di levare il marco e introdurre l'euro. E alla fine è venuto l'euro, ma che è praticamente una sorta di marco con un altro nome fino ad oggi. Questa è la ragione anche della crisi in cui ci troviamo. 12 anni più tardi, quindi, e in vista di questi cambiamenti che comunque investiranno le istituzioni europee, 10 anni più tardi, quindi, possiamo tirarne delle somme oppure delle conclusioni oppure semplicemente fare delle riflessioni sul ruolo che ha giocato l'euro? Sì, a seguito di questo che stavo dicendo, appunto, sulla spinta anche di Delors, che è un francese che allora era presidente della Commissione, lui fece un grande sforzo nel 91, appunto, a Maastricht, qui vicino, per combinare, modificare i trattati e dare le basi all'euro, le basi giuridiche ed economiche. Però alla fine dovette rinunciare a questo, al pacchetto completo che lui aveva preparato, e accontentarsi solo della istituzione vera e propria della moneta. E tutti dissero che alla fine poi tutte le altre cose che sarebbero state necessarie, una volta che l'euro cominciava a circolare, sarebbero venute quasi automaticamente. Questo purtroppo non è avvenuto, e quindi l'euro si è trovato un po' solo, come dicevo all'inizio, a far fronte alle tempeste che lo hanno attraversato, che lo stanno attraversando ancora tutt'oggi. Sono tante le tempeste. Allora, a proposito di tempeste, io vorrei iniziare proprio magari a parlare di una in particolare che ha colpito la zona euro, continua ancora purtroppo ad influenzare quelle che sono le nostre vite. Quindi, dove si trovano le origini della crisi economica e perché poi ha colpito la nostra zona, per l'appunto, come la chiamava lei prima, zona euro? Infatti, è proprio questo un po' il nodo di tutto il problema, secondo me, perché finché le cose funzionavano più o meno normale, come eravamo abituati, cioè l'economia bene o male cresceva un po' in tutti i paesi, anche se dove meno, dove di più, eccetera, non ci siamo accorti di quelli che erano i limiti dell'euro, che c'erano già prima, non è che sono venuti con la crisi, erano già strutturali, quindi già prima provocavano dei danni al sistema dell'Unione Economica e Monetaria, cioè ai paesi della zona euro, perché hanno portato un po' di benefici a tutti, ma ad alcuni paesi molto limitati, ad altri invece hanno portato grandi vantaggi, così com'era, però nessuno sembrava se ne accorgesse. Questo è un po' il guaio vero. La crisi ha un po' scoperchiato, diciamo, la pentola, e quindi ha fatto esplodere queste contraddizioni che erano insite nell'euro. La crisi, e sappiamo che è una crisi principalmente finanziaria, che è partita dagli Stati Uniti, per una serie di ragioni abbastanza complicate, ma le possiamo anche semplificare, sarebbe bene, insomma, che la gente si renda conto di quello che è avvenuto. E di fatto gli americani si erano inventati, il sistema finanziario americano, perché in America esistono, diciamo, le banche, intese in senso tradizionale, quelle che fanno i prestiti alle imprese, i prestiti ai giovani o alle famiglie, insomma, per comprare la casa, eccetera. Poi esistono invece le banche d'affari, cioè quelle che si occupano solamente di finanza, che comprano e vendono i titoli delle imprese o i titoli privati, e quindi cercano di guadagnare il più possibile. Però alla fine, col passare del tempo, questo secondo sistema ha prevalso e ha preso il sopravvento sull'altro. Però sembrava, per un periodo di tempo, sembrava che tutto questo producesse dei beni a tutti, in realtà si stava preparando appunto quelle che poi io chiamo l'uragano, eccetera, nel senso che questo bubbone prima o poi doveva scoppiare, come dicevano anche i miei amici americani con cui io parlavo delle volte andando lì a New York o a Boston, eccetera. E alla fine è successo, appunto, è scoppiata, il bubbone è scoppiato, perché è entrato in crisi proprio questo sistema che loro si erano inventati, cioè di fatto spacchettavano, per esempio, come suddividevano, ammettiamo che una casa costava 100.000 euro, la dividevano, non so, in 100 pacchetti, alla fine un pacchetto di 1.000 euro diventava, lo vendevano poi a 2.000, poi a 3.000, fino arrivava a 50.000 euro. Era una cosa impossibile, che non aveva più nessun aggancio con la realtà. Certo, questo era il motivo. Per cui poi alla fine questa cosa è scoppiata, e quindi ha fatto esplodere la situazione reale, quindi le banche che si erano indebitate, che avevano dentro questi titoli spazzatura, come le abbiamo chiamate. Quindi questo gli Stati Uniti, solo che poi gli Stati Uniti hanno risposto in maniera molto efficace, secondo me, non solo secondo me, la crisi, hanno tamponato la crisi poi sull'economia reale, perché poi questa crisi finanziaria si è spostata sull'economia reale, cioè sull'economia quella produttiva, sui beni che vengono prodotti dalle imprese, i vestiti, le macchine, i telefoni, tutto questo che noi vediamo ogni giorno e adoperiamo anche o guardiamo. E quindi l'America, che è un paese liberale, ha fatto degli interventi addirittura di aiuto attraverso lo Stato verso il sistema delle imprese americane, tamponando la crisi, ha fatto fallire una grandissima banca di queste che dicevo prima, che aveva provocato, che è stata una delle cause della crisi, e ha buttato soldi sull'economia reale con grandi finanziamenti, soldi che poi sono ritornati dopo. Noi abbiamo l'esempio classico, quello della Chrysler, che poi addirittura tramite la Fiat italiana. Quindi alla fine questi soldi investiti, prestati dallo Stato americano, sono ritornati indietro al bilancio americano, aumentati, perché l'economia è ripresa e questi valori, questi soldi sono aumentati di valore, diciamo, quindi, perché legata a un'impresa che ha prodotto di più, diciamo. Questo si è prodotto. In Europa che cosa è successo? Questa crisi finanziaria man mano è venuta anche da noi, si è spostata anche in Europa e nel resto del mondo, non solo in Europa. E il problema è che mentre anche negli altri paesi, a partire dalla Cina o il Giappone o la Russia o la Polonia, perché qui nessuno parla, perché non si dice la verità. La vera questione è che nessuno dice la verità sulle cause della crisi e perché si è fermata nell'Eurozona. Questo è il vero elemento. Anche nella campagna elettorale che tu hai evocato all'inizio non avviene. Non ne parlano. Non ne parlano. Ieri non ne hanno parlato assolutamente. Non ne parlano, ma questo io ho partecipato alle riunioni dei partiti europei, ma più che altro per ascoltare, per capire. E mi sono messo le mani ai capelli quando ho visto i loro programmi e quelli che dicevano. Cioè qui la politica continua a comportarsi come quasi se nulla fosse, anzi, adesso non voglio passare a un altro argomento, ma anzi, adesso c'è un altro messaggio, si vuol far credere che la crisi è finita, che è una cosa pericolosissima secondo me, quindi il messaggio è che la crisi è finita, quindi abbiamo agito bene, cosa che non è vera in realtà. E invece la gente sta ancora in grandissime difficoltà e quindi si arrabbia ancora di più se tu gli vai a dire queste cose, no? Perché assolutamente, ecco, appunto, titoli di giornali in cui insomma appunto, quindi stavo dicendo questa, in Europa come abbiamo risposto, è che questa era la tua domanda, che è la cosa importante, è il cuore di tutto il problema. Cioè mentre gli Stati Uniti hanno fatto quello che hanno fatto, come accennavo, l'Unione Economica e Monetaria ha reagito, cioè i paesi della zona euro hanno reagito in maniera del tutto opposta. Gli inglesi hanno fatto la stessa cosa degli americani, i polacchi la stessa cosa degli americani, perché hanno la loro moneta e la loro banca centrale, mentre nella zona euro abbiamo dovuto subire la politica dell'austerità, quella che abbiamo chiamato la politica dell'austerità, cioè prima i sacrifici e dopo poi vediamo se ti puoi rimettere. Quindi è come un malato, io dico, come a un malato grave a cui abbiamo propinato l'aspirina, insomma, questo è di fatto. Quindi come puoi guarire un però malato? Però lei nel suo saggio parla di strumenti che si potrebbe utilizzare, certo, contro la crisi, e dà anche delle soluzioni. Gli strumenti c'erano e ci sarebbero anche adesso, nonostante che il trattato alcune cose ancora non lo consente. Cioè la prima cosa che bisognava fare, ma che bisognerebbe fare ancora oggi, non è che è passato, anzi siamo già in grave ritardo, era un piano di investimenti, cioè un piano di aiuti finanziari alle imprese per consentire la chiusura delle imprese che stavano in difficoltà, perché la crisi finanziaria ha messo in fibrillazione le banche, le quali non hanno fatto più prestito alle imprese e alle famiglie anche. Questa è la matrice di tutto. Quindi bisognava trovare un sistema per aiutare le imprese e le famiglie. Noi abbiamo dato 800 miliardi di euro, parlo, alle banche. Quindi quelli li abbiamo trovati, in particolare in alcuni paesi, compresa la Germania in primo luogo, e abbiamo dato solo 10 miliardi per gli aiuti alle imprese. Fai il paragone e ti rendi conto di che cosa questo ha significato e di quelli che significa ancora oggi, perché queste sono le cifre, giusto per dirne alcune, perché se lo dovessi dire tutte, le cifre sono ben diverse e molto a svantaggio delle imprese o della gente e molto a vantaggio delle banche. Beh, una cosa è chiara, se guardiamo il tasso di interesse attuale con il tasso invece al quale l'euro oggi è prestato, mi riferisco al Belgio magari e l'Italia non ne parliamo perché insomma i tassi di interesse sono ancora più elevati, effettivamente c'è comunque un divario altissimo. Ma proprio questa è una delle questioni, cioè l'euro è stato fatto, io dico, come una moneta unica, ma non comune, cioè unica perché tutti abbiamo la stessa moneta in tasca, ma in realtà non è diventata una moneta comune tra tutti i paesi, quindi con le stesse regole e gli stessi comportamenti. Questo è sul piano, su diverse questioni, compreso questo del tasso di interesse. Cioè, com'è possibile avere la stessa moneta in Italia o in Germania o in Belgio e poi abbiamo un sistema di tasso di interesse sul debito e sui prestiti alle imprese completamente diverso? Allora, un'impresa tedesca si finanzia a tasso zero. Un'impresa italiana si finanzia a tasso 8%, 7%, poi parliamo di pari condizioni o di libera concorrenza, quindi ci sono delle contraddizioni enormi dentro al sistema, questo è uno. Un altro è che noi abbiamo fatto l'euro quando c'erano economie già diverse e non si può applicare la stessa moneta, la stessa politica monetaria della BCE, che questo è un altro tema, su situazioni economiche completamente diverse, e qui quindi bisogna cambiare questo. Adesso le cose da fare sono proprio queste, modificare questo stato di cose, non far la politica di austerità e basta, obbligare, cioè tagliare. Il famoso semestre di presidenza europea parla addirittura di mettere in Costituzione, credo che in Italia sia già avvenuto, la parità di bilancio. Ma questo è già avvenuto, questo è già il patto fiscale, il patto di bilancio, come abbiamo chiamato. Il dual, ma anche quella era una cosa da non accettare, quella è una cosa subita purtroppo, che i paesi europei della zona euro hanno subito questa proposta, io dico della Germania purtroppo, compreso la Francia, cioè qui il problema, la Germania fa i suoi interessi, io non sono contro i tedeschi, io non sono contro nessuno personalmente, anzi fatico a dire che sono contro una persona o contro un paese, proprio per natura sono tutto l'opposto, no? Però questo significa che noi non possiamo continuare a nascondere la verità, perché la cosa peggiore, il servizio peggiore che possiamo fare, secondo me, ai cittadini e all'opinione pubblica, è quella di fingere, no? E di non dire quali sono le vere ragioni per cui siamo in questa condizione e che cosa bisogna modificare per superarla. E questo invece non si fa, la campagna elettorale non lo sta facendo, io credo che ci saranno brutte sorprese anche per questo motivo. Speriamo di no, però insomma mi sembra che il contesto sia molto chiaro. Abbiamo parlato delle nostre responsabilità, allora a questo punto mi viene da pensare, e il ruolo della Banca Centrale Europea in tutto questo? Ma diciamo, la Banca Centrale Europea, io anche questa la vedo come un po' una Cenerentola. Perché? Perché la Banca Centrale Europea è stata istituita col trattato, quindi perché mettevamo in piedi l'euro, la moneta comune, unica, e quindi occorreva una banca europea unica. Intanto abbiamo fatto una banca centrale unica e abbiamo lasciato 18, adesso 18, perché 18 sono i paesi dell'euro, 18 sistemi bancari separati. Questa è un'altra delle gravi conseguenze della crisi, per esempio. Adesso questo è in via di superamento, però con grandi difficoltà. Quindi abbiamo, sul piano del principio e della legge l'abbiamo modificato, però quando si attuerà il sistema bancario comune? Questa è la prima cosa. Poi la BCE anche qui si trova un po' mezzo a mezzo alla tempesta a doversi difendere interpretando il trattato, un po' stiracchiando il trattato, e ha grandi difficoltà rispetto al sistema finanziario internazionale, perché la BCE non ha lo stesso potere che hanno le altre banche centrali degli altri paesi, a partire da quella americana, quella cinese, ma non ce l'ha nemmeno rispetto a quella polacca o a quella inglese, chiaro? Quindi restano ancora forti peculiarità. Quindi la BCE deve avere lo stesso mandato, deve avere le stesse regole che hanno tutte le banche centrali. Noi abbiamo fatto anche qui una banca centrale zoppa, come zoppa tutto il sistema dell'euro. Quindi ed è una cosa impossibile. Se la crisi un po' si è arrestata, abbiamo tamponato, è proprio grazie a quelli che ha fatto la BCE, o meglio a una sola dichiarazione che ha fatto Draghi nel 2011, dicendo se qui succede casino, per parlare un po' in italiano romanesco, ci penso io farò tutto affinché l'euro si salvi, e dopodiché gli speculatori si sono fermati, che è tutta una questione di speculazione. Ah, assolutamente, questo certo. È quindi lui è anche interpretando il trattato, poi ci sono intromesse la corte tedesca eccetera eccetera, ma fino adesso lui ha avuto ragione, però non, questo non può durare a lungo. Alla fine poi si scoprono le carte, quindi certo. Il gioco e quindi non è che ha barato, tutt'altro. Però o cambiamo le regole della BCE, gli diamo il potere reale come le altre banche, o altrimenti io credo che poi alla fine questo sistema non reggerà, nemmeno per la BCE. Quindi quale futuro prevede per l'euro e per la zona euro? Questa è una domanda come... Mi rendo conto. Come dice la cabra americana. la gabbia cioè napoletana, cioè io voglio essere ancora ottimista, nel senso che ho lavorato molto da 4-5 anni, da quando ho cominciato la crisi, su questo sistema, l'unico all'interno delle istituzioni europee. Non voglio parlare bene di me, assolutamente, non lo faccio mai, quindi ho tutt'altra reputazione di me stesso, quindi mi sento una formica soltanto. Però nel Parlamento, nella Commissione, né nelle altre istituzioni europee, questo tema è stato affrontato alla radice in maniera chiara, come dicevo poco fa. Questa è una cosa gravissima, diciamo. Quindi che cosa fare? Allora, per me le cose da fare sono chiare, io l'ho anche indicato in questo libro che ho scritto, certo, in maniera molto dettagliata. Cioè, la prima cosa da fare, a parte questo piano per la crescita subito, per dare una mano alla gente e alle imprese che chiudono e si ammazzano, perché qui stiamo di fronte a questo, cioè ci sono cittadini o impresari, ben piccoli imprenditori, che si sono uccisi fisicamente, non solo economicamente. C'è una cosa gravissima di cui non si parla, di cui anche i giornali diciamo di cui si parla solo in termini di cronaca nera, diciamo così, non si spiegano le ragioni. Allora la prima cosa da fare, se vogliamo evitare che questo perduri o che si possa ripresentare, perché se noi lasciamo tutto così, adesso magari la crisi ormai, diciamo, si è fermata, intanto ha prodotto danni gravissimi, e per recuperare quei danni ci vogliono 10-15 anni, questo nessuno lo dice, per esempio. Quindi però potrebbe di nuovo tornare, basta uno stornire di fronte, guardano pochissimo per ripartire, una sorta di speculazione finanziaria anche sull'euro di nuovo, e se noi andiamo a questi strumenti all'euro ripartiamo di nuovo con una crisi. Questa è la recessione più lunga che si è presentata. Allora, se questo significa che noi dobbiamo completare i limiti dell'euro, dobbiamo eliminare questi limiti attuali che l'euro ha, e cioè quindi prima, come dicevo, completare la BCE, quindi la politica monetaria. Dobbiamo fare una politica economica comune, occorre un governo economico comune, non possiamo avere la stessa moneta e ogni paese, come dicevo prima, si fa le sue politiche economiche per il settore auto, per il tessile, o per la chimica e tutto il resto, capisci? Questo. E poi serve un'altra cosa, più importante ancora, di cui non si parla e si teme addirittura di dirlo, occorre un processo decisionale diverso. Intanto più democratico e trasparente, che la gente deve capire che cosa succede, cosa che invece non avviene, nessuno lo sa, mentre nei paesi questo avviene, meglio, peggio, insomma non è che è tutto chiarissimo, però si fa e avviene, c'è un sistema di controllo democratico. Questo a livello europeo non c'è, quindi occorre cambiare il sistema decisionale europeo, significa occorre una integrazione politica. Un nuovo trattato. Non lo so, servirebbe anche un nuovo trattato, però non è un nuovo trattato, no, perché un nuovo trattato l'abbiamo fatto per il patto fiscale, capisce? Lo so. Quindi si può fare anche per questo, se serve, però l'importante è non lasciare le cose come stanno, perché sarebbe di una gravità unica, perché se questo capitasse dobbiamo pensare ad altre soluzioni. E quindi dove va l'Europa? Io spero che l'Europa vada nella giusta direzione, quindi che i politici, i governi europei, che oggi sono piuttosto deboli anche nei loro paesi, questo poi è la ragione, secondo me, non è pensare al passato, eccetera, ma abbiamo una classe politica molto debole, senza visione, e quindi non riesce a portarsi dietro i cittadini. Secondo me se si prova a ripartire, l'Europa può ancora avere un futuro grande, perché ce l'avrebbe. Se questo non avviene, ci saranno prezzi da pagare ancora da parte della gente. Io non so finché la gente è disposta a pagare altri prezzi, perché questa è la ragione vera. Carmelo, noi veramente la ringraziamo per questa sua spiegazione concisa, chiara, soprattutto, che effettivamente ci fa capire quanto ci sia ancora da fare proprio per rinforzare questa nostra moneta, per l'appunto l'euro. Siamo in chiusura perché, ahimè, il tempo in radio è particolarmente tiranno, ma proprio a conclusione c'è magari qualcosa che vorrebbe aggiungere, qualcosa che non gli ho chiesto e che vorrebbe ancora dire, indirizzare ai nostri amici all'ascolto? Io vorrei dire intanto ai cittadini che ci stanno sentendo che comunque devono andare a votare il 25 maggio, al di là se siamo d'accordo o no, perché non votare è fare servizio, diciamo, a chi è contro l'Europa, eccetera. Quindi è la cosa più importante. E votare nel modo migliore per un cambiamento dell'Europa. Noi abbiamo bisogno di un'altra Europa, non che non vogliamo, un'altra, non questa qui. Un'Europa dove si discute, si dice la verità, come si fa nei paesi. Invece questa Europa sembra che la dobbiamo tenere come una nicchia protetta, non si capisce bene per chi e per che cosa. L'Europa deve diventare un elemento di discussione da parte dei cittadini e della gente. Deve diventare un sistema democratico, questo. E questo mi sembra essere veramente un ottimo auspicio, soprattutto per il futuro. Quindi vi ricordo dove va l'euro, eurozona euro, 17. 71, edito da Edizioni Nuova Cultura, e noi ringraziamo Carmelo per essere stato nostro ospite questa sera. Carmelo, in bocca al lupo, e magari ci risentiamo dopo la parentesi elettorale. Ok, grazie a voi. Beh, penso positivo, effettivamente mi sembra essere un'ottima scelta, grazie Dani M, e intanto saluto la nostra Fiordaliso che è qui con noi. Buonasera. E il nostro George che sta cambiando professione, ve lo dico in anticipo, eh. Si sta trasformando in qualcosa d'altro, ma poi ce lo dirà che cosa si trasforma. Beh, chi lo sa, semmai lo lasceranno libero un martedì, potremmo chiederglielo. Beh, chissà. E cambiamo argomento. Letteralmente cambiamo argomento. Secondo me si trasforma in un razzo missile con circuiti di 1000 valvole. Beh, caro George, buon lavoro. Ovviamente sentiamo la tua mancanza. Abbiamo parlato di Europa, abbiamo parlato di euro, abbiamo parlato di crisi, e in un certo senso il tema della crisi ritorna anche in questo romanzo di cui ci apprestiamo a parlare, che ha un titolo molto suggestivo, e lascerò dire anche all'autore le ragioni per le quali ha scelto questo titolo, che è Voyage Corsaire, e sono molto felice di avere qui con noi a Radio Alma e a Bruxellando Giuseppe Santoliquido. Giuseppe, benvenuto a Bruxellando. Buonasera. Giuseppe ha il suo secondo romanzo. Sì. Dopo l'audizione di Dr. Fernando Gaspardi. Giusto. Con il quale tra l'altro hai vinto il premio, le Prix Emma Martin, il premio Saga Caffè, con una menzione speciale del premio Rossell. Giusto. Bene, quindi ci siamo ben informati. Tra l'altro scrivi anche, insomma, del nostro bel paese. Beh, capita. Di tanto in tanto, di tanto, insomma, in tanto, sì. Scrivi anche della nostra Italia. Ma questa sera io vorrei che tu ci parlassi soltanto di Voyage Corsaire, e ricordo che la casa editrice è Care, quindi Care Edizioni. Giuseppe, una domanda di apertura, perché così ti fai conoscere anche al nostro pubblico piuttosto italiano, già che tu scrivi in francese, quindi Voyage Corsaire è scritto in francese, sebbene Giuseppe abbia questo doppio cappello tra Belgio e Italia. Come nasce la tua passione per la scrittura? Ma nasce fin da piccolo. È nata con, anche se non parliamo di politica, però con questi scrittori tipo Sciascia, Moravia, Pasolini, Vittorini, che erano scrittori, giornalisti, e che avevano un impegno politico e sociale attraverso la cultura. Dunque, leggendoli nei giornali, nei saggi, poi sono piano piano ho letto pure i loro romanzi, i loro testi narrativi. Dunque è una mia passione per la cultura e per la letteratura impegnata, e è quello che sto cercando molto più modestamente di fare attraverso i miei romanzi. Nel tuo primo romanzo si sente molto l'atmosfera belgo-italiana, si sente molto quella che è la tua tradizione da un lato di influenza italiana, come dicevi, e poi il tuo essere belga. Voyage Corsaire invece è ambientato in Africa, sì, in particolare in Camerun. Come mai questa scelta e perché Voyage Corsaire? Voyage Corsaire, il titolo è un omaggio molto molto chiaro a Pierpaolo Pasolini, che è sicuramente lo scrittore italiano di cui mi sento più vicino e che leggo spesso, quasi tutti i giorni leggo un po' di Pasolini, o di poesia oppure di narrativa. Dunque il titolo è un omaggio chiaro a Pasolini. Poi il Camerun perché ci vado due o tre volte all'anno, do lezioni all'Università Cattolica di Yaoundé, alla Facoltà di Scienze Politiche. Dunque ho un legame affettivo con il paese, e poi la tematica del libro, che è questo legame tra la razionalità e l'irrazionale, mm-hmm, dove cioè il Camerun e l'Africa in generale, il Camerun in particolare, si è imposto a me per poter ambientare questa tematica e questa riflessione molto pasoliniana, in effetti, perché Pasolini girò un documentario che si chiama, penso, Appunti su un'Orestiade, e voleva lavorare sull'Africa, poi non ha avuto il tempo di farlo. E lì ti cito un capoverso che tu riporti nel tuo romanzo: J'étais rationnel et j'étais irrationnel jusqu'au bout, et maintenant, ah, le désert assourdi par le vent, le superbe et mon soleil de l'Afrique qui illumine le monde. Afrique, non unique, alternative. Ecco. E questo è un verso di Pasolini. Esatto, frammento alla morte in Religione del mio tempo del 1961. C'è un elemento molto interessante che si ritrova proprio all'inizio del romanzo, perché il protagonista, Frédéric Verratti, attraverso un periodo molto difficile della sua vita, lascia l'Occidente, infatti reduce da un divorzio, lascia l'Occidente per recarsi in Africa. E ti cito ancora, e capire anche il motivo della domanda. Après tout, il était un homme seul sur un continent, dont l'aventure était la substance même. Un continent qui, avec sa forme toute particulière de panthéisme, agissait en toutes circonstances, comme une mise à distance de nous-mêmes, facilitant ainsi les nouvelles rencontres. Sviluppi meglio questo concetto della distanza, di questo distacco che l'autore, sì, che il protagonista, insomma, che poi anche credo il tuo alter ego, sente, quindi questa necessità di lasciare per l'appunto l'incerto, forse irrazionale per l'incerto, quindi l'irrazionale? Ma sì, vedi, possiamo fare anche un confronto con, oppure un legame con quello che è stato detto poco prima, il mio predecessore parlava di politica, però il modo di vivere insieme, secondo me, oggi, sia in Italia che in Belgio, in Occidente, e anche un po', purtroppo, sta avvenendo anche un po' in Africa, è molto, secondo me, razionale. Ma razionale nel senso di una razionalità ottusa. E penso che quello che manca oggi è una visione più poetica del stare insieme, della società, nel concepirla e nel viverla. Non solo a livello di comunità, ma anche a livello individuale. Siamo in un modo di vivere troppo, secondo me, troppo amministrativo delle cose. E la poesia, come viene definita, per esempio, come la definisce un poeta francese che si chiama Yves Bonnefoy, la poesie fondamentale, che sarebbe il legame pieno all'altro, a se stesso e al mondo. Cioè capire non perché l'euro sia fatto così in tal modo o in tal altro modo, ma perché siamo qui, secondo quali valori dobbiamo vivere insieme, secondo quali valori vogliamo costruire le nostre società. E questo, secondo me, può farsi, certo, in un ambito di razionalità, di democrazia, però con una visione molto più poetica, dunque più immaginativa, più creativa delle nostre vite e del nostro essere insieme. E questo è il tema di questo, del romanzo, e almeno del viaggio che fa Frédéric Verratti. Come hai ben detto, lascia una realtà molto razionale e va verso l'irrazionale e cerca di vedere se è possibile avere questa tensione esistenziale, per citare Pasolini, tra questi due poli della nostra vita, la razionalità e l'irrazionalità intesa come poesia, come capacità immaginativa. In questo suo viaggio, io lo chiamo Federico all'italiana, così è più semplice, incontra però anche più personaggi, insomma, tu, sì, hai creato anche personaggi locali e personaggi di contorno, ovviamente, al protagonista. Allora, quello che mi ha colpito di più è il tassista Simon, sì, per noi occidentali, a cab. In effetti, sì. E questo è un personaggio vero, è stato un po' aggiustato per necessità, però è un personaggio che è esistito, perché quando si arriva in Africa non si conosce assolutamente nel paese, nel continente, si è logicamente un po' persi, no? E dunque si viaggia, ci si affida a un tassista che per pochi soldi, per pochi euro, ti porta in giro in tutta la città o in tutto il paese. E così ho fatto, e così ho incontrato questo ragazzo, Simon, che è un po' il simbolo, che è diventato un po' il simbolo di questa possibile convivenza tra la razionalità e l'irrazionalità. È un personaggio molto importante perché porta con sé questa tradizione africana e tutti i valori della società africana che purtroppo stanno per andare persi con questa occidentalizzazione estrema che sta vivendo il continente e in particolare il Camerun, cosa che ha conosciuto l'Italia, ha vissuto l'Italia negli anni 60, 50-60, con il boom economico e con la perdita dei dialetti, delle tradizioni locali, insomma, di tantissime cose. Simon però è autentico, lui, sì, ha un ruolo, ha una missione, quindi lui svolge piuttosto un ruolo tra virgolette conservatore, a dire guardate, sì, abbiamo anche noi dei valori, è giusto, vero che probabilmente veniamo da un continente considerato povero, ma povero poi da quale punto di vista, parliamone, però insomma lui ci crede molto nel suo territorio. Invece il personaggio più simpatico, quello che veramente mi ha fatto sorridere molto, è il regista, che tutti, sì, gli anni mette in scena un dramma di Eschilo. Giusto. Che mette l'Orestiade. E l'Eurissiade, bravo, esatto. Magari vogliamo dire qualcosa su di lui. Sì, perché è un falso suspense, perché il capitolo si intitola PPP, che è un chiaro richiamo a Pierpaolo Pasolini, che non sarebbe morto, ma si troverebbe in Africa e da 40 anni in poi sta mettendo in scena l'Orestiade, in italiano come si dice? Eschilo, con attori locali, perché pensa che, poi possiamo discutere del tema dell'Orestiade, perché pensa che così geneticamente si trasmetterebbe il messaggio di Eschile alla popolazione locale. E non finisce qui, abbiamo anche una donna, ovviamente, certo, poteva non esserci, non poteva com'è, mancare. Non poteva mancare. Che però è una militante, sì, alle prese, direi anche lei, con una sua crisi rispetto alla... Sì, è una di queste persone che hanno vissuto le indipendenze africane piene di ideali, di valori, di volontà di costruire società alternative, di terze vie, insomma, di tutte queste cose qua che stanno negli ideali, e poi confrontati alla realtà si accorge che è stata i suoi ideali forse li dovrebbe forse rimettere in causa, oppure vedere se sono ancora di attualità e scendere a compromessi tra gli ideali e i valori concreti della politica e della società attuale. E dunque è una specie di riflessione anche su questa tensione tra gli ideali e la concretezza, e poi anche una messa in causa delle sue come dire, dei suoi valori personali, insomma, ecco. E qui rivengo ad un tema che ho capito essere a te molto caro, che è quello dell'identità. Sì, perché tu insomma in ciascuno... Anche perché il libro è un sogno, l'hai svelato tu, non volevo... No, ma è meglio saperlo, perché è meglio saperlo, perché è un romanzo ciclico, dunque parecchi non me ne ero nemmeno reso conto. Poi diversi critici mi hanno detto: guarda che dopo la prima lettura è bene ricominciare tutto disponendo delle chiavi per capire tutte le tematiche. Ecco, e dunque è il resoconto di uno scrittore che scrive i ricordi di un viaggio che però non ha mai fatto. Dunque ci sono diversi gradi di realtà, e poi c'è questa dialettica identitaria con se stesso, sì, infatti. La vie n'est rien d'autre qu'un emboîtement de petits voyages dans un voyage beaucoup plus long. Cela ne sert à rien de s'inquiéter, de toutes les manières, personne n'en connaît la destination finale. È vero, no? Questo è quello che dice il protagonista, o tra i pensieri, infatti, Federico Verratti. Quindi mi viene spontaneo chiederti, Giuseppe, sì, sei solo alle prese con la promozione di questo tuo secondo romanzo? Sì. Stai già scrivendo? Insomma, ci puoi anticipare qualcosa su quello che bolle in pentola? Sono impegnato con la promozione del libro, che ringraziando chi si deve ringraziare sta andando bene, le critiche sono molto positive, dunque sono felice per questo, però simultaneamente sto scrivendo un altro romanzo, sperando che la politica italiana si calmi e che mi lasci scrivere i miei romanzi senza impegnarmi troppo facendo il giro delle radio e dei giornali belgi. E questo chi lo sa, sai che soprattutto in Italia siamo imprevedibili. Infatti sì, per fare ancora della promozione proprio alla scrittura di Giuseppe, vi ricordo Italy, un Democracy Perverti, sì, che risale al 2011, e Bunga Bunga Mode d'Emploi, giusto, che invece è un essai, la Renaissance du Livre del 2012. Sì. E quindi Giuseppe, avrete potuto capire, è veramente poliedrico, quindi riesce a combinare nella sua scrittura più elementi. Giuseppe, vorresti sì. indirizzare un saluto oppure ancora un messaggio ai nostri amici all'ascolto? Ma sì, certo, un augurio che il più possibile che siano numerosi quelli che vorranno scoprire quest'ultimo romanzo, Voyage Corsair, e poi magari ci risentiremo per il prossimo romanzo, per chissà, per qualche altra tematica da trattare insieme. E perché no? Quindi noi ringraziamo Giuseppe, vi ricordo grazie Voyage Corsair, edito da Kerr, e vi ricordo soprattutto che potrete trovare la versione del romanzo di Giuseppe anche disponibile in ebook. Sì, giusto. Quindi per quanti insomma stanno per partire, non avessero ancora pensato a che cosa li accompagnerà durante il loro prossimo viaggio, ricordandovi che il viaggio che ha iniziato Giuseppe soprattutto si compone di più viaggi, quindi potrete trovarlo veramente facilmente anche in versione ebook. Giuseppe, grazie veramente, grazie alla tua scrittura e a prestissimo. A presto. L'Elibrangolo. Grazie, già pensavo di rimanere senza sigla stasera. Però no, per fortuna Daniele ha sostituito. Quindi stasera io sono stata costretta di portarvi una delusione. No. Perché a volte le delusioni succedono, non è che è possibile sempre leggere e capitare soltanto sui libri buoni. Effettivamente stavolta sicuramente capita anche a voi, semplicemente se siete in vacanza da qualche parte, non avete libri con voi, che succede? E vabbè, ve ne scegliete uno a caso sullo scaffale di uno di un conoscente, e io ho fatto così e ho letto L'ultimo orizzonte di Colleen McCullough. Aiuto! E la situazione è che Colleen McCullough è fondamentalmente e soprattutto famosa per L'uccelli dei rovi, che vabbè tutti conoscono, cioè non esiste nessuno che non conosca almeno il telefilm se non il romanzo, che io avevo letto che ancora ero molto relativamente giovane e quindi in un'età in cui non ero nemmeno troppo schizzinosa per la qualità della scrittura, ma ovviamente non potrei nemmeno commentare la qualità della scrittura di Uccelli dei rovi perché non me ne ricordo particolarmente. E quindi ho letto L'ultimo orizzonte e mi interessava per l'argomento, perché si trattava dell'Australia, si trattava di un sacco di cenni storici che sono interessanti e coinvolgenti, come non so, la rivoluzione industriale, come Australia comincia a sfruttare le sue risorse minerarie e diventa sempre più un paese con cui bisogna contare, come appaiono diciamo nelle università di Sydney le prime donne, come cominciano a conquistare la loro posizione nella società. E tutto sommato il libro tratta di un sacco di avvenimenti abbastanza affascinanti, quindi uno si aspetta, e io sono in più un amante dell'Australia e quindi mi aspettavo una cosa bella. E con delusione dovevo constatare che la scrittura è un po', non so, è un po' negligente dal punto di vista, per esempio, si lasciano un sacco di cose fra parentesi che sono quasi ovviamente delle note a se stessa su delle idee da sviluppare. E semplicemente non so se non l'ha riletta, se stancazza di trama, non stanchezza di trama, non posso spiegarvi perché, ma quei cenni rimangono là fra parentesi e sono molto scomodi, molto brutti, molto, cioè è come se non so, non si amasse più il libro, più la trama, non si sviluppasse con entusiasmo. In effetti sentivo questo tipo di distacco, questo tipo di stanchezza anche con lo sviluppo dei personaggi, con cui non ho sentito questa relazione spirituale fra la scrittrice e i suoi personaggi, c'è questo distacco che comunque alla fine un po' mette un stampo sulla storia e lo rende un po' meno coinvolgente. Ciononostante io realizzo che anche questo libro sarebbe in teoria assolutamente filmabile, perché ci sono un sacco di avvenimenti, è una storia fondamentalmente epica, quindi nella mano di un bravo regista potrebbe sempre comunque diventare una storia da guardare con piacere. Quindi a volte succede, stavolta è stata... è stata una delusione. Quindi non so, cioè, non ve lo raccomando, cioè, a meno che abbiate delle ore da riempire. È un librangolo all'incontrario. Sì, succede, altrimenti pensate che io legga soltanto dei libri buoni, che io non faccia sacrifici per voi. E invece succede, quindi adesso però spero di buttarmi su una cosa più appagante e di portarvi una cosa molto più eccitante per la volta prossima. D'altronde la lettura è così, a volte ne siamo entusiasti, altre volte invece un po' meno, ma fa parte della nostra esperienza di lettori, essere esatto. capaci anche di decodificare magari delle cose che non ci piacciono. E il nostro Dani M si agita dalla regia, quindi questo vuol dire che siamo in chiusura di trasmissione. Manda segnali di fumo. Siamo attenti perché sto fumo, insomma, potrebbe invece essere, potrebbe significare qualcos'altro, ma invece no, siamo proprio in chiusura, quindi io ringrazio ancora Carmelo Cedrone che è stato con noi in apertura di trasmissione, il quale ci ha raccontato quella che è la sua opinione dell'euro e soprattutto di quello che può essere un eventuale futuro della nostra moneta unica. Quindi vi ricordo anche il suo saggio dove va l'euro, Eurozona, Euro 17 a 1 edizioni Nuova Cultura, e invece nella seconda parte della trasmissione Giuseppe Santoliquido ci ha presentato il suo secondo romanzo, Voyage Corsaire, ormai non so più quante lingue parlo allo stesso tempo, edito da Kerr, che ricorda molto lontanamente quella che è la magia della scrittura di Pierpaolo Pasolini. Vi auguro un'ottima settimana, un ottimo primo maggio, e sono tante le cose che potete fare a Bruxelles, agenda.be oppure Kefer.be. Buona settimana a tutti da Marie D.